questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò. So ringrazio il cielo che mi ha dato te. Questa mia vita ora è vita assai, cercavo il sole, ora è qui con me. La comprensione del bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei cara, tanto cara è mia bambina. Di tutto quello che mi dai, la comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei caro. Incontro con te che già eri di un altro, ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa, e già ti girava la testa, per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te, se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Per un dolce segreto, per noi un amore proibito.

l'amore tuo non muore, è come il sole d'oro, non muore mai più. Dimmi che non mi sa ingannare, il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Oh cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. Come il sole d'oro, non muore mai più. Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino. Cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Quando sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Tanto grande ormai non sa morire.

carissimo. E un mio piccolo ciao, ciao, sottovoce. Così nessuno capirà niente. E tu solamente tu capirai quanto sono innamorata di te. Pianissimo, devo dirlo, pianissimo, questo piccolo ciao. Doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare fortissimo, che ti amo fortissimo, che ti amo di più d'ogni cosa. Giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia. C'è gente che va a casa di Irene, bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. E poi ci sei tu a casa di Irene, e quando mi vedi tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di te. Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene Tu che sei tra le tante esperienze, quella che ho ancora in mente, quella che più mi prende. Tu che sei degli amori che ho avuto, il più complicato, il più semplice insieme. Tu che sei il mio sbaglio più giusto, è la più strana storia che han scritto di me. È per questo e per altro che anche così tornerei ancora con te. Tu che sei la bugia più sincera, la battuta più seria che ho detto mai. Tu che sei il brivido più antico dell'amore più amico che ho avuto mai. Dei ricordi che mi fan compagnia, tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te. Ho scordato che volevo scordare, ho pensato che era sciocco pensare, ho capito che non posso capire, ma solo accettare che non ti avrò più. Ah, tu che sei il mio grande rimedio, è la sola perfidia che accetterò. Tu che sei la mia pace, l'affanno, il più stupido inganno che mai soffrirò. Dei ricordi che mi fan compagnia, tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te. Noi ci amiamo, noi viviamo. abbracciami. Abbracciamoci. Caro amore, lo sai che ti amo. Il mio amore è tutto per te. I tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bene. Per chi? Per te. Io ti amo. Tu mi ami. Non ci importa della gente. Noi insieme. Ci amiamo, noi viviamo. Io ti amo, tu mi ami, non ci importa. Sensazioni, riflessi d'oro della catenina, sul seno tuo coperto a malapena. Finimmo poi rubandoci un tramonto, perché negli occhi avevo i tuoi soltanto. Non mi ricordo bene se fu il vento oppure io a sollevarti il mento per dirti il nome mio. Piano, piano mi innamorai di te. Piano, piano mi innamorai. in questo mondo. Io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Fa che domani, il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me, che non amo che te, che te, che te. Bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Due mani, amor, ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te. Vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere che odorano di vento. Noi due innamorati come nessuno al mondo, hanno provato mai. Bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Dio, come ti amo. il fatto di incontrare un angelo. Toccato a me un anno e più senza di te, io mi domando, non lo so, senza di te come farò, senza di te come farò? E vola il tempo e vola via, domani vengo a casa tua, ti guardo in faccia e dico no, senza di te non ci starò, senza di te non ci starò. Mi scriverai pure io, ti scriverò le notti in bianco, oh mio Dio, che passerò gridando in sogno. Il tempo e più ti amo, io senza te mi sento strano, ti vedo sempre accanto a me, sarà così anche per te, o adesso sta meglio di me. Mi scriverai e pure io ti scriverò le notti in bianco, oh mio Dio, che passerò stasera cominciamo con un bacio piano piano, poi diremo le cose di sempre, ma saranno come nuove per noi. Cominciamo ad amarci per la vita, cominciamo a tenerci per la mano ed andremo padroni del mondo, innamorati, innamorati. Questa sera poi diremo le cose di sempre, ma saranno come nuove per noi. Cominciamo ad amarci per la vita, cominciamo a tenerci per la mano ed andremo padroni del mondo, innamorati, innamorati così. Cominciamo ad amarci questa sera. Mia gelosia, la mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca. Io per orgoglio io ti salverei e dei tuoi miti cosa ne farei. E intanto porto i segni dentro me di un amore che oramai vive solo dentro me. Mi mia fatalità. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca senza te. La mia solitudine sei tu, l'unico mio figlio ancora tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca senza te. Adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. Adesso so chi sei, e non ci soffro più, e se verrai di là, te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. Spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più, tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Ah! piazzetta del mercato è ancora là. Le magliette sono uguali a un anno fa. Mi ricordo che la volevi tu, quella con ti amo scritto su. Con gli amici passo il tempo solo un po', e se chiedono ridendo con chi sto, io rispondo che amo sempre te, che da un momento all'altro arriverai, tornerai, tornerò. Col tempo non si può scommettere mai, e quello che succede non lo sai, ti perdo ad ogni giorno sempre un po'. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, sono un italiano, un italiano vero. Buongiorno Italia, Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Come una finzione sangue ma del rosso, acqua e sale, non le lacrime assaggiai, arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Che più la dici mai, è l'illusione mia che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita, passa il suono e belle immagini di noi. Meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose, e ogni peso appassionato un soffio, ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei. Lei che tra i baci miei è d'amore, è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quell'edera realtà. Ale fuggi ragazza mia, il naso lungo, il gusto della T. Non è la verità che più la dici e più la dici mai. È vita che non sai, sarà che come me tu rivivrai. Quando l'amore mio ti canterò. E quando tutti i giuramenti saranno inganni, alla vita che stupita sbandera. Amarsi è prima di capire, rimbambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici meno baci avrai. È l'illusione mia, è vera, è chi ama canta tra le voci della vita, l'acqua che si incontra col suo scialacquio. Oppure è meglio non cantare muti se non è d'amore e qualcuno deve farlo. E sono io che ti canterò e come in fuga nel tuo cuore andrò. Non è la verità che più la dice, più la dici mai. Perché cantare d'amore, d'amore, d'amore. Adesso si libera. sei così diversa, come sei strana stasera. Ragione come se non fossi quello che sono. D'accordo, ma l'amore è un sentimento, dimensione non ne ha. Primo fiore tu sei, che dolce inganno, ho bisogno di te, tu sei sincero, senza te morirei. Bye.